Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti in questa nostra trasmissione Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon. Nelle trasmissioni scorse abbiamo parlato della nascita dell'API, l'Associazione Pioniere d'Italia, dell'ARCI e di come personaggi come Carlo Pagliarini fossero fondamentali per innervare queste associazioni che parlavano e mettevano insieme persone giovani e non. Carlo Pagliarini, militante comunista, prima giovane partigiano e poi subito buttatosi anima e cuore in quell'ingrande impresa pedagogica di relazione con le masse popolari del dopoguerra, degli anni difficilissimi degli anni 50 e dei grandi cambiamenti degli anni 60-70. Carlo Pagliarini, ricordiamo, fu prima fondatore dell'API e poi ben presto divenne dirigente anche dell'ARCI e quindi a capo dell'ARCI Ragazzi. Oggi invece parliamo della nascita dell'archivio Carlo Pagliarini, una ricca documentazione consultabile presso l'Istituto Gramsci di Bologna, ed è una nascita che mette insieme lavoro di storici, studiosi, familiari ed è la stessa Fondazione Gramsci. Ne parliamo con Ciriana Suprani, proprio responsabile dell'Istituto Gramsci bolognese. Suprani, all'Istituto Gramsci è presente e custodito il fondo Carlo Pagliarini. Carlo Pagliarini è stato il fondatore dell'Associazione Pionieri Italiani, parliamo degli anni 50, 1950. Come è arrivato all'Istituto Gramsci questo fondo e perché anche avete ritenuto importante custodirlo? Il fondo Carlo Pagliarini è arrivato al Gramsci perché qualche anno dopo la sua morte, che è avvenuta nel 1997, Carlo Pagliarini era nato a Sant'Ilario d'Enza ma risiedeva da tanti anni a Roma e in questo caso alle porte di Roma, in un paese, in un comune vicino a Roma. La sua morte, come dicevo, qualche anno dopo, 1997, prendemmo contatto con la moglie. Questa cosa però non nasce dal nulla. Già Marco Fincardi aveva dedicato saggi in alcune riviste all'Associazione dei Pionieri e quindi ci trasmise, diciamo, l'informazione dell'esistenza di Carlo Pagliarini e ci suggerì la possibilità, parlando con la famiglia, di poterne ospitare la conservazione presso la Fondazione Gramsci. Noi così facemmo e in particolare poi la moglie fu estremamente disponibile e molto contenta dell'offerta da parte nostra di conservare le carte e dopo poco, insieme ad una persona che conduceva l'auto, io stessa andai a casa di Carlo Pagliarini a recuperare i documenti. Un ruolo molto importante per metterci in relazione con la famiglia l'ha avuto Michela Melchiori, che studiava insieme a Marco Fincardi l'esperienza dei pionieri e che era già entrata in contatto con la moglie di Carlo Pagliarini. È interessato alla conservazione delle carte c'è anche il comune di Sant'Ilario d'Enza, dove è nato Pagliarini, e il comune è stato presente al momento, noi ed informato anche della nostra intenzione di recuperare e conservare le carte e ha partecipato, diciamo, anche a questa prima stesura di un elenco inventariale, mettendo tra l'altro a disposizione anche i propri mezzi di informazione per comunicare la presenza del fondo Pagliarini presso il Gramsci. italiani. Questo materiale che tu trovasti quando arrivasti appunto a casa di Pagliarini, e come era organizzato? Se era organizzato? Era molto organizzato. L'archivista che poi ha fatto, diciamo, una prima ricognizione su queste carte l'ha potuto verificare, era stato già riorganizzato in parte dallo stesso Pagliarini e in parte dai familiari, in particolare dalla figlia, qualche tempo dopo. Un archivio di questo genere è un archivio, diciamo, che nasce dalla volontà di una persona di lasciare una traccia di un lavoro che ha ritenuto evidentemente importante. Nascono così in genere gli archivi personali? Come nascono in definitiva gli archivi o materiali da archiviare? Da dove arriva in generale? Beh, devo dire che è difficile fare un'unica tipologia delle carte personali di una persona. Sicuramente rispecchiano la sua vita e rispecchiano i suoi interessi, la sua attività professionale o appunto di intellettuale o di politico. In questo caso l'archivio di Carlo Pagliarini è molto connotato dai suoi interessi nei confronti della pedagogia, che è stata la ragione in tutta la sua attività sia professionale che politica. Quindi il materiale a disposizione su questo argomento è molto rilevante. L'archivio, a mio parere, ancora non è stato adeguatamente sfruttato per la ricchezza che contiene. Questo assumo anche in parte da parte nostra, insomma, la responsabilità, perché noi abbiamo potuto metterlo a disposizione pressoché immediatamente, perché, come dicevo, essendo in buona parte riordinato, una sorta di elenco inventariale già oggi a disposizione del pubblico. Non è a disposizione del pubblico una buona descrizione delle carte che le renda anche fruibili e faccia nascere il desiderio a chi fa ricerca di porvi l'attenzione, insomma. Quindi cosa che abbiamo intenzione di fare nel corso di questi mesi, entro il 2019, di poter mettere a disposizione un inventario effettivamente esauriente sui contenuti di questi 24 faldoni di documenti, che sì, molto molto connotato su questo aspetto della pedagogia della sinistra, soprattutto dell'area del Partito Comunista, nei confronti dei ragazzi. Che è un interesse di Pagliarini alla pedagogia, che l'ha seguito per tutta la vita, dall'inizio, quindi dalla fondazione dell'ABI, sì, fino poi al suo percorso che ha fatto anche nell'Arci Ragazzi. Quindi parliamo, sì, almeno di 40 anni di lavoro intorno a questo importante. Insieme a Gianni Rodari ed anche altri, certo, tra l'altro anche a Franco Fraboni dell'Università di Bologna. Insomma, è stato un lavoro che è stato sia politico, legato più strettamente ad organizzazioni legate al Partito Comunista, ma anche proprio di natura culturale e scientifica, legato ad ambienti dell'università, università e della ricerca. Per questo archivio, Suprani, tu dicevi che intendete comunque fare un ulteriore lavoro per renderlo disponibile. Che cosa significa in concreto? In concreto significa, adesso c'è una descrizione dei fascicoli che a volte tiene anche conto della originaria intestazione. I fascicoli dei documenti sono naturalmente, non sono stati assolutamente toccati, non sono i documenti che sono stati fascicolati o dallo stesso Pagliarini o dalla famiglia in un secondo momento, non sono stati modificati e spesso la descrizione dei documenti all'interno è molto sintetica e connotata solo dal titolo del fascicolo, dall'intestazione del fascicolo. Noi abbiamo mantenuto questo e, come dicevo, si tratta proprio di un vero elenco inventariale e che rende sicuramente, aiuta l'accesso ai documenti e al fondo, però non dà ragione di una descrizione più dettagliata dei documenti all'interno degli stessi fascicoli. E dal momento che abbiamo riscontrato la necessità di farlo, perché spesso il titolo è tutt'altro che esauriente sul valore anche dei documenti contenuti, è nostra intenzione procedere ad una descrizione più, diciamo, più dettagliata degli stessi singoli documenti all'interno appunto del raccoglitore, dell'unità archivistica, del fascicolo. E questo aiuterebbe molto a capire proprio l'utilità che, e il valore stesso, insomma, di questi documenti per chi volesse studiare queste esperienze di natura culturale, ecco, visto che l'interesse nei confronti di questo genere di attività che veniva svolta in quegli anni in un ambito che si può definire politico, credo che sia molto utile darne una descrizione più approfondita. A questo punto facciamo un passo indietro e torniamo agli anni 50 con un protagonista nel mondo cattolico dell'editoria per bambini. Parliamo del Giornalino, una rivista italiana di ispirazione per l'appunto cattolica, pubblicata a periodicità settimanale, che contiene fumetti e rubriche di vario genere. È pubblicata dall'edizione San Paolo di Alba, fondata da Don Giacomo Albertone nel 1924, quindi date antiche. Sulle sue pagine sono apparsi personaggi nel tempo come Bellocchio, Leccamuffo, Bob Kent, Capitan Eric, Capitan Rogers, De Cocco, Jackie Speed, Ricky Bravo, poi Susanna, l'agente Allen ed altri, insomma. Ed era uno di quei grandi competitor che nel mondo cattolico si opponevano all'editoria socialista del Pioniere. Un'organizzazione molto accurata, come dimostra anche questa pubblicità a 16 mm proiettati allora nelle sale cinematografiche, che pubblicizzava appunto il Giornalino come giornale sano per famiglie e per bravi ragazzi. Il giornalino. Ma che cos'è che attira tutti laggiù? Il giornalino. Ragazzi e bambine interrompono i loro giochi perché tutti vogliono il giornalino. Il giornalino! E tutti corrono a precipizio. Tutti promossi, i lettori del giornalino. Sì, tutti promossi perché il giornalino sviluppa la fantasia senza eccitarla. Diverte educando, istruisce senza stancare, facilita e rende piacevoli i doveri di scuola. Contiene avventure, novelle, fiabe, curiosità. E inoltre i migliori racconti della letteratura italiana e straniera, leggende d'ogni tempo ed ogni paese, cine romanzi storici, vite di uomini illustri. E infine musica, cinema, filatelia, lavori di ritaglio, costruzione, concorsi, sport, giochi. Piace a tutti parecchio, al ragazzino, al giovane e al vecchio. Yeah. grandi fumetti. Braccio di ferro. Popeyes, alias Braccio di Ferro, è un personaggio immaginario statunitense creato da Elsie Chrysler Sigar. Per farne un più preciso identikit ringraziamo i servizi di Ragnasonia.net che ci offre appunto uno spaccato sulla storia del suo autore, ma anche sui tratti del caratteristico marinaio degli spinaci. Nome Braccio di Ferro. Prima apparizione 1928. Luogo di nascita Santa Monica, California. Le sue abilità sono una forza sovrumana, una resistenza alla stanchezza, una buona prontezza di riflessi e anche un valido pugile e uno spadaccino. È invulnerabile fisicamente, ha una velocità straordinaria ed altri superpoteri, il tutto grazie agli spinaci che mangia. Come abbiamo detto, il nostro eroe debutta il 10 settembre 1928 su Timbal Theatre del King Future Syndicate, ossia una grande azienda statunitense di syndication appartenente alla Hertz Corporation, che distribuisce strisce a fumetti, colonne editoriali, rompicapi e giochi a oltre 5.000 quotidiani in tutto il mondo ancora oggi. La striscia Timbal Theatre di Sigar è da sempre associata a Braccio di Ferro, sebbene, quando il marinaio fece il suo debutto, fosse già il suo decimo anno di vita editoriale, con trame e personaggi abbastanza organizzati. In ogni modo, Braccio di Ferro divenne uno dei cardini della serie, che a partire dagli anni 30, grazie anche alla distribuzione del King Future Syndicate, andò letteralmente in giro per il mondo. Inoltre, il personaggio deve la sua popolarità anche all'adattamento di alcune storie a cortometraggi animati distribuiti dalla Paramount Pictures. Ma procediamo con ordine. Iniziamo a raccontare qualcosa sul creatore di Braccio di Ferro. Elsie Chrysler Sigar, classe 1894, nasce un 8 dicembre in Illinois. Figlio di un tappezziere e pittore e nipote di un distributore d'olio d'oliva. Questo particolare della professione del nonno è importante, e non è solo una nota di colore, perché aiuta a capire e a comprendere come mai molti dei suoi personaggi, di cui insomma tra breve parleremo, hanno nomi che inequivocabilmente rimandano al mondo dell'olio. Appassionato fin da giovanissimo di cinema, lavorò a lungo come proiezionista e come anche batterista, cioè colui che accompagnava le proiezioni del film muti in sala. Amerà talmente il suo lavoro da farsi tatuare le lettere MOP, ossia Motion Picture Operator, sul braccio. Ad un certo punto seguì anche il Cartoonist William Lewis Evans System, ossia un corso di disegno per corrispondenza, e iniziò da questo momento a produrre le prime opere grafiche. Raccomandato da Richard Felton Hautklut, il creatore di The Yellow Kid, che è insomma il primo fumetto della storia americana moderna, riuscì a farsi pubblicare il primo lavoro nel 1916 sul The Chicago Herald. Questa sua prima opera era la trasposizione a fumetti delle comiche di Charlot, Charlie Chaplin Comics Capers, si chiamava, cui seguì una tavola domenicale dal titolo Barry the Boop. Infatti, come ricorderete, nel fumetto americano le storie si caratterizzano in due modi, o sono strips, cioè strisce, di 3-4 vignette, oppure sono grandi tavole domenicali in cui le storie vengono sviluppate su tutta una pagina e vengono appunto distribuite da queste syndicate nel giro dell'America su vari quotidiani. La vera svolta della sua carriera però avverrà di lì a poco, quando, notato da William Randolph Hearst, uno dei magnati della stampa americana, si trasferì da Chicago a New York, dove nel 1919 creò prima The Timbal Theatre e poi nel 1920 Sappo, un impiegato costretto al pendolarismo che, mettendosi a subaffittare stanze della sua casa ad estranei, avrà a un certo punto come inquilino uno scienziato pazzo, Watson Nozzle, che coinvolgerà insomma il proprietario di casa in una serie di folli avventure. Tuttavia, la leucemia e una grave epatopatia consumarono rapidamente la vita di Sigar. che morì nel 1938 all'età di 43 anni nella sua villa di Santa Monica in California. Timbal Theater, come visto, sarà la sua opera principale e la più famosa. La serie, tuttavia, nonostante insomma si concluda nel 1938 la vita dell'autore, proseguirà. Infatti, dal 1919 al 1938 i testi e i disegni saranno appannaggio esclusivo di Seeger, poi verrà continuata da diversi autori e altri scrittori. In particolare dal suo assistente Bud Sagendorf, che rivoluzionerà, come vedremo, alcuni personaggi. La striscia continua ad apparire nelle tavole domenicali con una veste inedita scritta e disegnata da Hai Heisman. Mentre per quanto riguarda le strisce quotidiane che trovate in questi giorni, sono ristampe di vecchie storie di Sagendorf. Andiamo ora ad introdurre i personaggi principali delle storie. Provo a iniziare dal nostro marinaio Guercio. I'm afraid to sail the man. I'm afraid to sail the man. I'm drunk to the finish, cause I ain't finished. I'm afraid to sail the man. I want some gazookas, which hates all palookas, what hates on the up and square of. Why best and I bought them and always outrun them, but none of them gets nowhere. If anyone dashes to rest me this, it's pop and it's wham, understand. So keep good behavior, that's your one lifesaver with Popeye the Sailor Man. Why Popeye the Sailor Man? Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, cause I eat big spinach. I'm Popeye the Sailor Man. Braccio di Ferro è un marinaio guercio da un occhio, infatti Popeye significa occhio sporgente. Rappresentato con una caratteristica pipa sempre in bocca, che come abbiamo appena sentito suavemente emette il suono del piroscafo, cioè il tu-tu dello sbuffo del vapore. Il personaggio ha un corpo nerboruto ma un po' sproporzionato, ha le gambe corte, fanno da contrappeso due avambracci sproporzionati, entrambi tatuati con un'ancora. Ed è solito, insomma, il personaggio vestire una blusa marinara, inizialmente nera, poi bianca, perché, vista la popolarità delle sue strisce al fronte durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, decisero di fargli indossare la divisa bianca dei Navy, proprio per poi, insomma, non separarsene più anche a guerra finita. Mentre nella serie animata il personaggio è declinato per garantire un intrattenimento semplice e quindi risulta un po' appiattito sulle scazzottate e sulla semplice soluzione narrativa fatta dalla sequenza di rapimento, rissa e lieto fine, il personaggio originale è sostanzialmente un uomo di mare forte, ignorante, indurito da risse, bevute e permanenze in galera. Nonostante tutto questo, ha però un cuore buono. È infatti solito dire, è all'incirca la mia unica buona qualità, non serve cervello per essere buoni. La sua forza sovrumana e la sua resistenza sono all'inizio poco marcate, e quando i suoi poteri si manifestano sono una qualcosa che ha a che vedere più con intenti satirici che di spettacolo. Inizialmente, inoltre, Popei non li ricava questi poteri dagli spinaci, bensì strofinando la testa di una gallina magica di nome Berenice. Alla domanda sul perché mangi così tanti spinaci, risponde invece che per via del fatto che contengano vitamina A. Sembra che l'autore per la creazione di Popeye si sia ispirato alla figura del pugile realmente esistito Frank Rocky Fiegel, nativo della sua città e noto per essere un vero e proprio attaccabrighe. Nel 1996, sulla tomba di Rocky, è stata posta una lapide di Popeye, commissionata proprio dal The International Popeye Fan Club. Come detto, tuttavia, la prima apparizione di questo personaggio fu quella di un attore non protagonista. E all'interno di una striscia in cui i veri protagonisti erano Olivia e il suo allora fidanzato Harold Hamgravy. Fu però il successo di pubblico che il marinaio decretò a far sì che l'autore scegliesse di dargli più spazio. Finì così che Olivia prese a interessarsi a lui. Pisellino, fa attenzione, sto per raccontarti un'autentica favola assolutamente vera. Che bello, che bello! C'era una volta la giovane Olivia, che tutti chiamavano Cappuccetto Rosso. Che chiamavano come? Che tutti chiamavano Cappuccetto Rosso, ecco come. Olivia era una ragazza molto graziosa che abitava nei pressi di un bosco, vedi? Allora, un bel giorno, mentre attraversava il bosco per andare a portare degli hamburger al suo amico Poldo, che era a letto malato, passò accanto a una strega affamata che l'aveva vista arrivare e aveva sentito l'odorino dei suoi hamburger. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balun. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare?